Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Siamo pronti. Dai, andiamo a bruciare un bar. No, dai, no, bruciare un bar. A Pioltello hanno bruciato un bar sulla base di una notizia falsa, cioè che stavano festeggiando falsamente, questa cosa è stata diffusa, l'attentato di Manchester, alcuni magrebini. È bastato che si diffondesse la voce che pif! Hanno preso fuoco. Hanno bruciato questo bar. Bisogna stare attenti quando si maneggia l'informazione. Beh sì, infatti. Anche perché poi sennò escono fuori interviste come quella di D'Alema oggi al Corriere della Sera, non so se l'hai letta. Come no? Come no? Guarda, devo dire che io l'intervista D'Alema le leggo solo per arrivare a capire a quale livello ormai arriva di, come dire, un po' di fiele nei confronti dei rivali politici, in Renzi, questo distillato puro fiele che emana. Del resto, se lo dice lui, che considerando la qualità del governo non ci vuole molto a far meglio, questo è il suo bilancio dei governi di questi anni. Va bene, dai, vediamo un pochino che ci dicono i santi di oggi. Oggi ci parlano di un santo molto popolare, perché fece benissimo con i ragazzi, con i giovani disredati. Era una specie di Don Bosco antesignano qualche due secoli prima, perché San Filippo Neri, appunto, a Roma, lui era un fiorentino di una famiglia, i Neri, appunto, che secoli prima insieme ai bianchi erano stati protagonisti della vita politica fiorentina, poi erano decaduti, il padre era un notaio, ma insomma pochi soldi, ma lui viene preso dalla fede, prima come laico e poi come sacerdote a Roma, fonderà la congregazione all'oratorio, quella di Santa Maria in Vallicella, e diventerà il punto di riferimento morale di papi, di tutti i romani, amato e amatissimo ancora adesso. Mi è sempre sembrato un buon esempio di come declinare la vita per gli altri, per i giovani che hanno poco. Oggi, tra le cose da ricordare, nel 1896 nasceva l'indice Dow Jones. L'indice Dow Jones è uno degli indici di borsa americani, ma a me piace ricordarlo perché si chiama così, Dow Jones, perché i due che, mettendosi insieme, lo escogitarono, ecco, uno dei due era appunto Charles Dow, e Charles Dow era un giornalista insieme a Edward Jones, un matematico. I giornalisti vengono spesso considerati dagli accademici economisti come gente che non dovrebbe occuparsi di economia, io lo penso di molti di loro, al contrario. Ecco, e il Dow Jones nasce appunto da un giornalista e da un matematico. Tra coloro che compiono gli anni oggi, il grandissimo Bruno Gambarotta, che per me, torinese amante di radio e televisione, è un punto di riferimento per decenni in Rai, grandissimo Bruno, Renato Brunetta e anche Giovanni Minoli. Auguri Giovanni, perché fai gli anni oggi. E allora, alle 8:23 minuti, diamo il numero di telefono solito, 800-800-24-0024, perché ho detto 800, questa cosa qua? Perché il Dow Jones dell'800, insomma, così mi hai fregato tutto. Allora, perché sei anche tu nostalgico, perché vuoi che anche tu, Totti, continui a giocare. Ma per carità, a me sta storia di Totti mi ha sfrangiato, i cosiddetti. Devo dire che, insomma, con tutto l'affetto e l'amore per il grande campione, però questo non riuscire a gestire questa vicenda che l'anno scorso dura da anni la commedia. Io quando ieri ho letto il commento che lui faceva, questa è l'ultima partita che potrò giocare, cioè che potrò, come dire, mi obbligano, mi hanno costretto, mi distruggono questa carriera nel fulgore degli anni. Non lo so, è una cosa che mi ha molto interrogato. Come fai a fargli fare il dirigente in una squadra rispetto alla quale parla così? Però ma io credo nel calcio poi tra due mesi si tutto supererà, è possibile, tutto c'hai ragione, è come nella politica, tutto sommato. Sì, io dicendo anche una battuta spesso dico, ma non è di oggi, è di un po' di tempo fa, ho detto vorrei che il TAR del Lazio mi cancellasse il sonno arretrato, cioè se esiste un TAR del Lazio per tutto io farei un appello perché mi cancelli il sonno arretrato. No, in realtà parlando seriamente, parliamo oggi di questa vicenda del TAR del Lazio che, siccome non sono state rispettate le procedure, ha annullato di fatto 5 delle nomine, delle 20 nomine non so a capo dei musei. Non sono state rispettate perché io mi sono letto secondo la sentenza. Secondo il TAR. Mi sono veramente piegato in due. Comunque oggi è Per esempio, io ho letto Oscar Giannino sul Messaggero, per il TAR è assolutamente eresia ed è un motivo di validare tutto, capito. Fare i colloqui su Skype. Capito? Su Skype. Cioè, perché le imprese fanno da anni e anni. Eresia, capito? Questa nuova tecnologia. Vabbè, non sarà però questo il punto fondante. No, però le obiezioni, accolto, di fatto sono tre. Una è quella proprio delle procedure di audizioni, che sì, secondo io, il TAR vanno fatte in luogo fisico e aperto alla possibilità che tutti possano registrate, verbalizzate, ma anche ascoltate. La seconda è un minuziosissimo intervento su come sono stati dati i 100 punti che erano a disposizione della commissione per valutare, secondo alcune classi, no? I titoli, le esperienze precedenti e così via. Ecco, ci sono pagine e pagine in cui si entra nel dettaglio di come sono stati attribuiti i punti ai candidati da parte della commissione. Questo, signori, non è formale controllo del rispetto alla legge, a cui io dico sempre viva viva, perché in Italia siamo abituati a vedere di tutto. Qui è discrezionalità del TAR che entra nel come sono stati giudicati. E poi c'è l'obiezione di fondo sugli stranieri, perché sostiene il TAR occorreva la deroga esplicita al testo unico del pubblico impiego, che dice che per ruoli dirigenziali non si possono ammettere i non cittadini italiani, ma la questione è: i dirigenti dei musei rientrano nella stessa categoria di ammiragli e generali, per cui il testo del pubblico impiego esplicitamente lo esprime? Perché in tutti gli altri paesi europei questa cosa non vale? Perché secondo la giurisprudenza della Corte europea non è affatto detto ciò che per invece il TAR è automatico? Ci vogliamo tirare fuori dal mondo? Dirà il TAR: chi se ne frega, il mio problema è solo far rispettare la legge. Io credo che questa volta, io che pur critico molto i governi, la figura di Palta rimediata dal non si potismo all'Italia nel mondo è pazzesca. Ma chi può più prendere sul serio un'offerta italiana dopo una cosa simile? Non lo so. Cioè, diciamo che il dato di fatto è che il TAR ha bocciato la nomina ai 5 direttori dei musei, in alcuni casi in quanto manager stranieri, in alcuni casi perché le procedure non sarebbero state rispettate. Per il ministro Franceschini è stata una figura a livello proprio mondiale, anche perché tra l'altro questi direttori hanno rilanciato oggi il Sole 24 Ore dai dati del più 19% a doppia cifra di aumenti, capito? Di visitatori, ma significa di risorse ovviamente aggiuntive a quella dei trasferimenti, messa a reddito del patrimonio pubblico. E solo grazie a questi 20 musei di prima fascia che per la prima volta si è avviato un esperimento che ci consente di avere bilanci comparati con criteri analoghi, cioè di capire chi è più bravo ad amministrare e chi no. E si butta tutto l'accesso per Skype. È proprio solo Skype. Per esempio, con Peter Assmann, austriaco, storico dell'arte, direttore del Palazzo Ducale di Mantova, i visitatori sono cresciuti del 51%. E Peter Assmann, però, è uno di quelli che è stato sospeso. Buongiorno, dottor Assmann, grazie di essere qui. Questi Piccola sono i dati. Correzione, non sono più direttore. Certo, è vero. Lei giustamente nella sua burocratica risposta dice non lo è più. Ah, sono il TAR, lo risanziona. No, se no, se lei dice che è direttore ha paura che il TAR se la riprenda. No. Sì, ma ci sono quelli che mi seguono, quindi. Esatto. Io ho tentato sempre di essere molto molto corretto in tutto. Certo. E insieme a lei c'è il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Anche per lei è una figuraccia mondiale questa che abbiamo fatto? Ma assolutamente, ma siamo tutti sbalorditi, una figuraccia mondiale. Siamo tutti assolutamente sbalorditi, io spero solo che i tempi dell'appello al Consiglio di Stato siano abbastanza rapidi, perché oltretutto lasciamo queste 5 istituzioni in un momento in cui appunto avevano recuperato pubblico e anche visibilità senza una guida. Quindi una figuraccia mondiale e anche un danno grave a queste 5 istituzioni. Tra l'altro Peter Assmann, ex direttore a questo punto, perché diciamo il pronunciamento del TAR è esecutivo, no? Lei in questo momento non ha di fatto potere nel Palazzo Ducale di Mantova, non può fare una firma, non può eseguire nessun atto? Sì, è così, forse un po' un potere emozionale, ma non un potere burocratico. Diciamolo così. Ci sono tanti che mi sostengono, che mi parlano di in maniera molto positiva, e ci sono anche già delle iniziative, ma vediamo i prossimi giorni se si risolve questo. Fra poco il danno non sarà così grande, forse è una lezione di prepararsi un po' meglio, ma se per, non so, mesi questa situazione resterà aperta, è un danno per tutta la riforma e anche un danno per tutta l'Italia, perché prendo semplicemente l'esempio del Louvre, stiamo preparando una grande mostra su Giulio Romano e naturalmente loro ieri hanno subito telefonato, ma che cosa c'è? Quindi questi sono i passi che poi si fa subito, quindi bisogna stare molto attento a e non si tratta solo di, diciamo, una pubblicità dell'Italia, un'immagine, ma si tratta delle cose vere. Sì. Ci può dire i dati, cioè ce li può confermare? I visitatori sono cresciuti effettivamente del 51% da quando lei è stato nominato direttore? Sì, allora l'anno 2015 abbiamo già avuto l'anno più bello da 12 anni, poi abbiamo questo aumento di 51%, e in quest'anno i primi mesi hanno ancora portato qualche cifra in più. Quindi non è solo l'esperienza di un anno, ma una solidità, diciamo, di qualità che abbiamo potuto ricevere. Che effetto le fa sapere che uno dei motivi per bocciare è il fatto di essere straniero? Che effetto le fa? Ma io dico che tutti i miei sentimenti forse non interessano così tanto, ma il danno è da evitare al Palazzo Ducale e a tutti i musei italiani, quindi dei sentimenti, ognuno può immaginare come ci si sente con una notizia di questo tipo, poi ci sono tante domande, ma che sono poi? Quindi ho un contratto in mano che da un'ora all'altra non vale più, oppure, quindi sono tutte questioni aperte. Devo anche un po' rispondere a mia moglie. Infatti, questo aspetto umano le rende onore, perché bisogna anche sottolinearlo a chi ci ascolta. Ma io approfitto del fatto che lei ha toccato un punto che sfugge a molti commentatori oggi, ma che invece spero il Consiglio di Stato vorrà prendere nella più importante attenzione, perché quando lei ha sottolineato, tra l'altro, la natura del suo rapporto contrattuale con questo signore che ritira la parola, che è lo Stato italiano, tocca una questione che molti non hanno colto oggi nei commenti della stampa italiana, perché il rapporto dirigenziale pubblico da anni e anni, grazie alle trasformazioni di legge che abbiamo dato al pubblico impiego nel nostro lavoro, ha assunto una forma privatistica, e questo aspetto non è del tutto, è assolutamente trascurato, non preso in alcuna considerazione dal Stato, ma invece è fondamentale. Perché sa il Consiglio di Stato? Magari. Ecco, quindi non è proprio che uno dice, caro signore, mi sono sbagliato, adesso infatti, non passa allo straniero. Da questo punto di vista, sottosegretario Borletti Buitoni, il governo non ha davvero nulla da rimproverarsi? Cioè, nel senso, voi avete fatto, secondo lei, avete rispettato tutte le norme, per cui il pronunciamento del TAR è un pronunciamento sbagliato, che contestate pur dovendolo rispettare? Guardi, le norme sono state rispettate, anche perché mi ricordo che all'epoca del bando è stato fatto uno studio accuratissimo anche sulle norme europee, perché non dimentichiamoci che le norme europee, proprio per la ragione che veniva detta, vanno rispettate, quindi la chiusura e la preclusione prioristica a cittadini che non siano italiani, poi le norme non le consente. Ma c'è un altro aspetto che non è stato sottolineato, secondo me, che purtroppo c'è un'Italia di cui il TAR è, come dire, la controfaccia amministrativa, che all'epoca di quel decreto ha urlato qualunque genere di improperio contro questa strada. Esatto. Cioè, noi siamo ancora in un paese che, nonostante a Londra il direttore della National Gallery si chiami Finaldi e prima veniva dal Prado, nonostante ci siano grandissime istituzioni nel mondo che hanno direttori stranieri che non sono del paese in cui si trova l'istituzione, in Italia noi abbiamo ancora storici dell'arte, qualche pubblico, certamente alcuni esponenti del mondo della cultura che ancora ritengono che tutto questo sia sbagliato. Ecco, io trovo che è molto più sorprendente questo, perché la sentenza del TAR io credo verrà ribaltata dal Consiglio di Stato, ma che questo è un paese in cui ancora si ritenga che chiamare un direttore tedesco a dirigere gli uffizi sia un delitto, mi pare che sia il segno di una arretratezza culturale veramente drammatica, di cui la sentenza del TAR è la controfaccia amministrativa. Pensate che Peter Asman in una intervista, oggi c'è anche su qualche giornale, ha detto, e non so se è vero o se era una battuta, ma io non sapevo neanche cosa fosse il TAR. Non lo so, Peter Asman è davvero, è davvero così no, Asman. Allora, questo non ho detto, hanno citato in una maniera sbagliata, io mi sono informato ben bene. Sei informato, ma prima di ieri o dopo ieri? Ieri proprio. Ieri ha dovuto, diciamo, suo malgrado, conoscere e scoprire anche che cosa sia il TAR. Ma io devo dire, io in questo caso non sono soggetto, sono oggetto. Esatto. Quindi fanno perché qualcosa con me che io non posso influenzare, credo. Quindi poi vediamo come reagiamo noi, perché per primo c'è il shock, siamo in 5 e 4 sono italiani, quindi non è solo il caso, di straniero, è il caso mio, ma poi ci sono gli altri stranieri. Una battuta ho già detto, ma datemi la cittadinanza italiana e poi è tutto risolto, oppure non so, è un uomo di spirito che conserva uno spirito nonostante devo dire, come sottolineo e ringrazio la sincerità, poteva rispondere no, io del TAR lo so dall'inizio, invece l'ho scoperto ieri. Però come vedi, anche uno spirito pratico, mentre qui la vittoria del formalismo non si puotista, come dice oggi Francesco Merlo su Repubblica, è veramente la bandiera del conservatorismo. Ma tra l'altro dovreste tutti leggere anche l'intervista, non ne voglio fare una colpa, per carità, perché ognuno porta avanti i propri diritti, ma una delle due persone che ha fatto ricorso, che è la sovrintendente, che mi sembrava un po' ritrosa, delle belle arti e paesaggio a Parma e Piacenza, che è quasi imbarazzata, raggiunta dal Corriere, si vede che ha capito la bufera mediatica, e ha detto preferirei non parlare molto di questa storia, sottosegretario, cioè, perché non se ne parla, ma se il TAR si è pronunciato vuol dire che qualcuno escluso ha fatto ricorso, no? C'è anche da dire che noi siamo il paese dei ricorsi, tutto in Italia sempre ha un ricorso. Se uno fa una gara, non so, per comprare 4 matite per l'ufficio, perché da quando io sono al Ministero mi rendo conto di quello che è la farneticazione burocratica degli enti pubblici, tutto ha sempre un ricorso. Quindi c'è anche questo da dire, che noi abbiamo degli strumenti amministrativi e giuridici che permettono che qualunque cosa sia passibile di ricorsi in qualunque momento. È molto difficile far funzionare un paese in questo modo. Siamo il paese in cui i genitori ricorrono al TAR se vengono bocciati i figli a scuola, ricordiamolo. Quindi, c'è anche questo. Cioè, il paese nel quale Gian Battista Vico non avrebbe mai pensato che invece di teorizzare una teoria dello sviluppo ricorsivo della storia, fosse corsi e ricorsi, stava semplicemente preludendo al manifesto del blocco amministrativo del paese. Il ricorso era quello, non ci aveva pensato Gian Battista Vico. Noi comunque, nel ringraziare il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni e Peter Asman, al quale chiediamo anche, perché sua moglie va a sapere, cioè lei cosa farà domani? Attende il Consiglio di Stato? Prefa le valigie? Non le faccia. Un pezzo d'Italia in ginocchio le chiede di non fare le valigie. Cioè, cosa farà lei? Cosa farà lei, Peter Asman, adesso, tecnicamente, da lunedì? Allora, domani mi metto d'accordo con il mio interim, Stefano Locaso, che conosco naturalmente molto bene. Poi faccio un giro con un gruppo dei sponsor che ci hanno dato 350 mila euro per non perderli, facciamolo così. E poi non faccio le valigie, aspetto un po' le novità. Però il tono è di un po' di scoramento. Io posso dirle a nome di, io sono sicuro, a nome di tantissimi italiani, ci scusi. Ecco, solo questo voglio dire, perché ci sono tantissimi italiani che si rendono perfettamente conto della condizione in cui persone di grande professionalità, lei come tanti altri, come gli italiani nominati, cioè non c'è nessuna differenza, con una procedura di selezione di quel tipo, in questo caso questa specie di affronto, mancanza di rispetto, chiamiamola come vogliamo, che comunque è demotivante, mentre al contrario c'è bisogno di tutta la vostra motivazione e professionalità. Davvero, non si scoraggi e se può ci perdoni, questo paese è un po' ridicolo. Intanto... Scusate, vediamo i prossimi giorni, vediamo esatto, i prossimi come giorni. Grande sarà il perdono. Grazie a Peter Assmann ovviamente per essere stato con noi, e grazie al sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni. Ci sono tante telefonate ovviamente, ma anche molti tenete duro, c'è molti... anche qualcuno che dice però no, il governo che ha sbagliato, viva il TAR, io sono ricevuto un bel po' di letterine stamattina presto. Se ci attacchiamo alle minuziosità, c'è sempre qualcosa, una virgola fuori posto per cui nel paese burocratico si può fare. No, ma poi la realtà è che questa cosa degli italiani fora gli stranieri è uno dei riflessi condizionati del dibattito pubblico di questi anni italiani, cioè è un paese che per via del fatto che sta male, è depresso, l'economia non va eccetera, è tornato fuori questo rigurgito, c'è poco da fare, nazionalistico, autarchico. Poi mi dice che no, ma chi ha fatto il ricorso, Sergio da Milano? Ma non è che va detto perché, cioè sono delle persone, da hanno portato avanti i loro diritti, tra queste sono due, una è Giovanna Paolozzi Strozzi che oggi viene intervistata dal Corriere della Sera, è sovrintendente. Esatto, perché diciamolo tutto poi, i sovrintendenti hanno visto questa nuova procedura di selezione, molti di loro, non voglio generalizzare, ma insomma, qualcosa di escludente. Come una roba, anche uno straggio, perché fino a questa riforma erano solo loro quelli che potevano partecipare e diventare direttori di musei, e invece così si chiama da fuori. Sì. Poi dico, quando le norme non sono precise si dà spazio ai ricorsi, ma le norme sono fatte per essere sempre appellabili, no? Imprecise, perché sono lunghe, io invito tutti a leggersi le sentenze, 57 cartelle a 4 della sentenza pilota tra le due, e sfido chiunque di voi a non capire una cosa. Qui c'è anche un altro punto di fondo, Alessandro, la selva del diritto è tale che se un politico vuole fare una riforma, e in questo caso ripeto non è una normetta infilata dentro, era uno dei pilastri portanti di una riforma che Franceschini e Renzi hanno spiegato in tutti i modi che la volevano fare proprio così. Ecco, voi troverete nella sentenza un tale numero, un tale novero di norme citate rispetto alle quali se non se ne tiene conto non si può muovere un passo, che capirete che poi il precipitato è questo. Per scrivere le norme il politico non è capace, ok? Può scriverle solo lo stesso magistrato amministrativo che ha il potere di interpretarle, si dà un sindacato forte, la sentenza dice noi abbiamo un sindacato forte, certo possiamo anche andare a vedere che voto dai, che pensi tu di poter dare un voto discrezionale? Noi possiamo ribaltare il voto che dai, io non sono d'accordo, il giudice non può ribaltare un voto, scusami, ma detto tutto questo aggiunge, le possiamo scrivere solo noi. Ecco, allora un paese in cui le norme non le applica ma le può scrivere solo un magistrato amministrativo è un paese finito, perché non c'è più neanche la separazione dei poteri. Ecco, questo è questa la situazione. Certo. Allora, dai, andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, sono le 8:46 minuti. C'è Silvio, ci chiama da Padova. Buongiorno. Pronto? Eccoci Silvio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono un avvocato, sì. Però a me pare che stia rovesciando un po' la cosa, e cioè io sono, poniamo che io sono un avvocato che organizzo un bel contratto di diritto internazionale tra diciamo Italia e Cina, dopodiché qualcuno impugna quel contratto e i miei clienti mi dicono ma avvocato ma cosa ha fatto? Io sono responsabile di quel contratto, cioè il ministero ha stuoli di dipendenti, magistrati, funzionari, sì, sì, quant'altro per fare queste cose. Però su questa cosa il ministro Franceschini è stato chiaro a dire è vero, dovevate fare una deroga alla legge del 2011. Il ministro dice non è vero, la deroga non serviva perché avevamo fatto un atto ad hoc. Certo, il TAR ha giudicato invece. Beh, allora io mi domando perché certe volte le sentenze si devono rispettare, altre volte, sempre con rispetto parlando, le sentenze devono essere derise. Ma chi sta deridendo? Le sentenze vanno rispettate ed esecutive. Detto questo, in un paese libero si possono commentare, o almeno io ho sempre inteso che si può o non si può. Anche perché se il Consiglio di Stato la ribaltasse, cioè se dicesse il Consiglio di Stato no, era tutto a posto, che figura abbiamo fatto? Poniamo il caso, no? Sono d'accordo, ma allora il TAR non doveva rispettare le leggi che i politici si erano fatti, per quanto affastellate, per quanto stupide, per quanto incredibili da capire o da far entrare l'una nell'altra. Diciamo che non è colpa dei magistrati del TAR se le leggi sono fatte così. Sì, il però abbia pazienza. Lei l'ha letta la sentenza? Imputed sibi. No, non ho letto la sentenza. Ecco, cioè io la seguo, non la sto per interrompere. Cioè, io posso capire che il magistrato amministrativo possa ritenere, no, l'acquis comunitario è voluto, sì, ben dopo nel tempo con sentenze della Corte di Giustizia Europea rispetto alla norma del 94 italiano che lui richiama, a suo giudizio equipare il direttore del museo a un ammiraglio e a un magistrato, su cui c'è la riserva esplicita di legge italiana, non c'è sul direttore dei musei. Posso capirlo, ma quando si mette a scrivere pagine intere in cui entra nel merito di come sono stati dati ciascuno dei 100 punti della valutazione dalla commissione che ha scelto e ha deciso i direttori, beh, sa, avvocato, io ho l'impressione che lì non siamo nel rispetto formale della legge e nel legittimo esercizio dei poteri del magistrato amministrativo di fronte a cui mi inchino e che in Italia sono necessarissimi visto quello che succede intorno a noi, ma lì a me sembra pura discrezionalità del magistrato, perché sa, se il magistrato lo mettiamo a vedere come ogni professore dà i voti nelle scuole, perché è la stessa cosa, è finita per quello che mi riguarda. Poi non so come la pensa lei, non è un eccesso? Allora dobbiamo parlarne non con Franceschini ma con Orlando o con chi per me. Anche, sì, ha ragione, ha ragione. Allora, sì, sì. Però voglio dire, se un provvedimento promana da un organo amministrativo qual è il Ministero e lo stesso altro organo amministrativo, in questo caso di giustizia amministrativa, dice quel provvedimento è illegittimo per la discrezionalità o non discrezionalità, come ci siamo appena detti, non resta che andare al Consiglio di Stato, perché in un paese legale non si può fare altro che quello. Sì, in questo caso concreto di sicuro, ma non resta che guardare a monte di tutto, e quindi a coloro che ci governano o che ci hanno governato, o anche alla paralisi però della selva normativa con i magistrati che sono gli unici ai ministeri che scrivono le leggi, perché sa, di puro formalismo le caste si autotutelano alla fine. Ah, certo che sì, questo sono d'accordo con voi, sono d'accordo con voi, è un piacere avervi sentito. Piacere nostro. Grazie Silvio. Andrea Lecco da Daniela, buongiorno Daniela. Sì, buongiorno, io sono sulla stessa linea dell'avvocato che ha appena riattaccato, cioè va benissimo tutti i discorsi, la legge è faraginosa, la legge è complicata, la legge è qui, la legge è là, ma la legge c'è. Allora, chi ha fatto i cambiamenti, cioè vedi Franceschini, che tra l'altro io apprezzo tantissimo, seguo tantissimo tutte le cose ottime che sta facendo e che ha fatto, ma hanno sbagliato in partenza. Allora, la legge c'è, dovevano modificare la legge a monte, è inutile che mi diciate che hanno fatto il TAR, i giudici del TAR hanno interpretato, sono tutte cose che oltretutto non vanno bene per, secondo me, per chi ascolta, perché allora si dà una visione della legge e delle normative e di chi amministra la legge nel nostro paese, si sì, faraginosa tutto quello che vuole, però ci sputiamo sopra e ci facciamo una trasmissione. Allora diciamo, in realtà, da quello che io mi sembra di aver capito, gli unici che hanno potuto fare ricorso sono i due direttori italiani, perché era previsto per chi è italiano. Allora, che sia la legge dell'ammiraglio o del capitano non mi interessa, allora dovevate modificarla a monte, e anche i punti di interpretazione dei 100 punti. Ma scusi, punti. Avvocato, posso dire una cosa? Ma cioè, no, io non sono avvocato, sono un medico. Ho capito, però allora, non credo però di doverla richiamare, no, visto che lei sta dicendo, aspetti un secondo per dialogare. Guardi, l'ordinamento comunitario prevale automaticamente sui principi delle leggi italiane preesistenti. Le è chiaro questo? Ecco, se non le è chiaro, mettiamolo sul tavolo, perché io altrimenti non mi permetterei di parlare agli ascoltatori. Io non sto deridendo la legge italiana, è parte dell'ordinamento italiano la prevalenza dell'ordinamento comunitario su principi come le quattro libertà, cioè la libertà di stabilimento, stiamo parlando di questo, delle persone e l'accesso e allora alla pubblica amministrazione. È l'articolo 45 del trattato, il TFUE, il trattato fondamentale dell'Europa, dottoressa. Quindi sa, io non derido prima di parlare. Quindi attenzione a fare della legge il feticcio, perché nella legge italiana il rispetto dell'ordinamento europeo viene prima di vecchie leggi italiane, per dirne una. Dopodiché mi inchino al TAR, vedremo al Consiglio di Stato. Ma non sono abituato da molti secoli a fare il mio mestiere di fronte alla pronuncia di un magistrato inchinandomi, perché ho capito che nel nostro paese sulle questioni che riguardano l'ordinamento, le prerogative dei dirigenti pubblici, perché di questo stiamo parlando, cioè di un paese che dice, per una vecchia legge amministrativa, solo i dirigenti pubblici possono fare direttori dei musei. Nel mondo non funziona così, in Europa non funziona così, c'è una libertà stabilita da un articolo del trattato europeo. Vediamo il Consiglio di Stato, io non sto sputando su niente, dico che come al solito il mondo va in un modo, noi facciamo della legge un recinto in cui moriamo per anossia. Questo è il rischio, ma io dico rischio, mica io sono certo che poi alla fine avrò ragione, forse avrò torto, ma per dialogare tutto qua. In ogni caso, la vicenda ovviamente non è finita, vedremo il Consiglio di Stato. Ringraziamo Daniela D'Alecco, con cui concludiamo. Il TAR è quello anche che ha riabilitato i centurioni del Colosseo, perché aveva diritto a fare i centurioni del Colosseo, cioè il TAR del Lazio. Insomma, poi non abbiamo seguito tutto il refrain politico di tutti coloro che dicono abolire il TAR, che non lo dicono da oggi, ma lo dicono. Comunque vedremo, noi siamo qua semplicemente per ragionare, non per dare i voti, ci mancherebbe. Il dato di fatto è questo. Allora, ci fermiamo con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè in regia, come sempre. Ci spiace per Peppe da Napoli, ma lo recupereremo la prossima volta, come sempre. Forza, che come dicono all'inizio della trasmissione, venerdì per te, finire per me invece oggi, domani, eccetera, eccetera. E va bene, dai, andiamo avanti. Continuate con il 24.